2024 di Enrico Pagliarini. Puntata dell'8 gennaio 2011. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Vi do un annuncio prima di iniziare con le nostre notizie e i nostri approfondimenti. Dalla prossima settimana, quindi dal 15 gennaio 2024, guadagnerà mezz'ora e tra l'altro saremo in diretta con gli ascoltatori nel sabato pomeriggio di Radio 24, quindi vi aspettiamo per la nostra nuova edizione dalla prossima settimana. Come sempre vi ricordo che le nostre puntate sono disponibili attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it. Naturalmente cliccate sulla pagina podcast al termine della nostra puntata, poco dopo troverete il file MP3 della nostra trasmissione. Questa settimana segnaliamo lo storico sorpasso in Europa tra i programmi di navigazione per internet, i browser. La fine del 2011 ha decretato il superamento di Firefox su Internet Explorer. Pensate che non accadeva dai tempi di Netscape, ma quelli erano gli anni 90, quindi un po' di tempo fa, che Internet Explorer non accadeva che Internet Explorer non scendesse in seconda posizione, cioè non fosse in seconda posizione fra i programmi di navigazione per il web. Secondo la società StatCounter, che effettua un monitoraggio costante di quello che accade in rete, in Europa Firefox ha raggiunto a dicembre una quota di mercato del 38,1% contro il 37,5% del programma Microsoft. Entrambi sono inseguiti da Chrome, che sale piuttosto velocemente. Si tratta del programma targato Google, che è al 14,4% ed è, secondo alcuni, il maggiore responsabile della perdita di Explorer. Cioè, la quota di Firefox è più o meno costante, e invece molti utenti di Internet Explorer sono passati a Chrome. Tutto ciò capita in Europa, perché negli Stati Uniti Microsoft mantiene la leadership e quindi per alcuni analisti il motivo principale dello scivolone europeo è dovuto all'obbligo imposto a marzo 2010 dall'Unione Europea di indicare agli utenti di Windows le alternative ad Explorer. Sono ben 11 quelle che sono elencate, ma nel mercato molti lo sanno, ce ne sono molte altre, insomma browser anche specializzati, molto particolari. Tutto ciò conferma che nella nuova era del web 2.0 e soprattutto in quella del cloud computing, il programma per navigare in internet è e sarà sempre più strategico. Ad esempio, Google ha introdotto questo programma per navigare in internet perché con Chrome tutti i servizi che vengono messi a disposizione da Google online sono più facilmente utilizzabili. Ad esempio, nel caso di Internet Explorer, molti servizi, cioè tutti i servizi che Microsoft mette a disposizione online, sono utilizzabili con maggiore fluidità, diciamo così. Sicuramente Firefox rimane un prodotto molto buono, ci sono tante caratteristiche che spingono al download di Firefox, che tra l'altro, lo ricordiamo, è creato dalla Mozilla Foundation, quindi una fondazione senza scopi di lucro in un ambiente open, molto interessante anche per la community che produce add-on, quindi estensioni per Firefox. Questa sicuramente è una buona notizia. Le altre notizie, diciamo molte delle altre notizie che arrivano questa settimana, sono in arrivo da Las Vegas, dove si è aperto il 6 di gennaio il Consumer Electronics Show, che si concluderà domani. Come vi ho annunciato la settimana scorsa, noi abbiamo i nostri inviati, in modo particolare Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine online dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024 in diretta da Las Vegas. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina è con una piccola redazione, parte della redazione di dday.it. Quante persone hai portato a Las Vegas? Cioè quanta parte della redazione hai trasferito a Las Vegas? Siamo in quattro, quest'anno siamo in quattro. Grande lavoro, anche perché, come succede spesso in queste manifestazioni, il problema principale è non trovare le notizie, ma trovare la connessione internet, che sembra ridicolo, un po' strano. Ma sì, effettivamente sì, è diventato a Las Vegas già dall'anno scorso, ma quest'anno in maniera particolare, il problema fondamentale al Consumer Panel Show per noi che facciamo questo lavoro, perché è come se così prendessimo una macchina del tempo e viaggiassimo un pochino nel futuro, ma probabilmente non di tanti anni. C'è una concentrazione di tecnologia tale e di operatori legati alla tecnologia, tale per cui il numero di apparecchi collegati alle reti sia cellulari che wifi è talmente alto da mandare tutto in conflitto, praticamente si blocca tutto, quindi qualsiasi connessione dati chiaramente cade in crisi, quindi noi siamo rimasti per diverse ore senza poterci collegare in maniera decorosa a internet, e da una fiera della tecnologia questo evidentemente è un piccolo paradosso. Questo fa pensare più che altro in prospettiva, perché il numero di apparecchi che accedono alla rete in mobilità è in rapidissimo aumento, sia per via degli smartphone sia per via dei tablet PC, e quindi la domanda di cosa succederà alle nostre reti wireless se non verranno potenziate le infrastrutture, e forse anche se non verrà cambiato qualche standard che evidentemente non è così solido da questo punto di vista, questo è un quesito sicuramente importante che lascia una piccola ombra sullo sviluppo di queste tecnologie negli anni futuri. Sì, effettivamente sembra paradossale che ad una fiera del genere ci sia difficoltà a collegarsi ad internet, ma tu mi dicevi, ho letto anche alcuni messaggi su internet, che proprio per cercare di limitare questo problema, a molte conferenze stampa si chiede esplicitamente di spegnere tutte le connessioni ai giornalisti per non creare problemi a chi magari deve fare una demo e dimostrare un nuovo prodotto. Tu hai citato gli smartphone e hai citato i tablet. Mi sembra che dal primo, diciamo, per il primo prodotto, prima tipologia di prodotti, quindi smartphone, non ci siano novità epocali. Alcuni produttori hanno presentato nuovi telefoni, mentre invece ci sono forse almeno in quantità più novità sul fronte tablet. Sembrano quasi tutti pazzi per i tablet a Las Vegas. Sì, assolutamente sì, perché sembra appunto che se in questo momento un produttore di elettronica non ha in gamma un tablet PC o qualcosa di assimilabile a questa categoria di prodotto, ecco, sembra che abbia una gamma assolutamente incompleta. In realtà, e questo bisogna dirlo, i tablet ancora oggi, anche dopo la fiera, che esistono e che sono in commercio, sono fondamentalmente iPad di Apple, e aggiungerei anche il Galaxy Tab di Samsung e praticamente pochissimo altro. Tutte le cose che sono state presentate a Las Vegas, tantissime, in realtà sono ancora largamente allo stato prototipale o comunque sono apparecchi che non verranno alla luce prima di 4-6 mesi, e quindi anche in termini di funzionamento non è stato possibile verificarne, come dire, le prestazioni in maniera concreta. Abbiamo soltanto verificato, anzi piuttosto abbiamo verificato la loro instabilità spesso. Perché stiamo parlando di prodotti che sono tutti sviluppati su sistema operativo Android, e in particolare il nuovo Android 3.0 che uscirà tra poco, quindi che non è ancora sul mercato. Sì, perché diciamo che l'Android precedente, quello attualmente disponibile, il 2.2, non è così ottimizzato per questo tipo di device, non è stato pensato per questo tipo di device, è stato pensato più che altro per gli smartphone, e è stato poi portato, esteso su questi apparecchi che però hanno esigenze un pochino differenti. Quindi serve questa nuova versione, che in codice si chiama Honeycomb, e che arriverà appunto, si pensa, ad aprile. Quindi diciamo che, visto che ad aprile o comunque in primavera è prevista l'uscita anche del nuovo iPad, diciamo che potremo vivere sicuramente una primavera di novità sul segmento tablet, giusto? Sì, di novità che non riguardano, come abbiamo detto, probabilmente le funzionalità, perché quelle saranno al di là di iPad, ma tutte le altre che giocano tutta la partita Android saranno, diciamo, quantomeno equiparabili, però sono stati presentati, questo sì, alcuni form factor leggermente diversi, quindi alcune modalità di utilizzo e fruizione di questi tablet che sono almeno una proposta originale, ecco, questo va riconosciuto. In alcuni casi, e devo dire in testa fra tutti Asus è stata a presentare questi apparecchi, e non si è trattato di mere scopiazzature dell'iPad, ma di qualcosa in più. Per esempio l'iPad in versione Transformer è di fatto sembra un netbook direi, sempre col display 10 pollici, tipico come fosse iPad, però ha la tastiera, cioè sembra proprio come un netbook. Schiacciando una levetta in realtà si sgancia il monitor, che è il vero cuore del computer, cioè il processore invece di essere contenuto nella parte con la tastiera è contenuto nella parte del monitor, il monitor si sgancia e diventa a tutti gli effetti un tablet. Quindi è contemporaneamente sia un tablet stile iPad, ma può diventare anche, se c'è bisogno, proprio come un notebook con la tastiera, ed è lo stesso apparecchio. Oppure l'apparecchio sempre di Asus, simile, ma è il cosiddetto chiamato slider, che assomiglia, anche qui sembra un tablet normalissimo, ma se si fa scorrere lo schermo, proprio come alcuni telefoni cellulari, sotto si scopre una tastiera di formato quasi da computer desktop, ecco, quindi una tastiera completa, QWERTY, quindi anche in questo caso l'apparecchio assume delle funzionalità da PC quando ce n'è bisogno, se no resta comunque un tablet da usare semplicemente con la pressione del dito. Senti, utilizzi saranno sempre più diffusi probabilmente, e a farne le spese probabilmente saranno i netbook, che sembrano in questo momento, un po' per l'aggressione degli smartphone, un po' per l'aggressione dei tablet, un form factor destinato a scomparire. Sì. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, riprendiamo tra poco e parleremo di prezzi, che è un tema sempre interessante. A tra poco. Riprende 2024, vi ricordo che dalla prossima settimana il nostro programma andrà in onda tra le 15.30 e le 17 in diretta con gli ascoltatori. Potete scriverci anche durante la prossima settimana, magari per prenotare un vostro intervento. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Direte, intervento su cosa? Beh, proponete temi e sicuramente terremo in considerazione le vostre email. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sistema podcast. Andate online sul nostro sito internet e cliccate nella sezione podcast. Al termine della puntata, poco dopo, sarà disponibile il file MP3 della nostra trasmissione. Più tardi ci occuperemo anche di Wikipedia, che la prossima settimana festeggia i primi 10 anni. Con un obiettivo di raccolta fondi raggiunto da pochi giorni. Adesso siamo collegati con Las Vegas, dove domani si conclude il Consumer Electronics Show, la fiera più importante al mondo per il mercato dell'elettronica di consumo. È collegato con noi Gianfranco Giardina, che è guida alla redazione di dday.it, che sta naturalmente coprendo tutta la fiera con video e approfondimenti. Dunque Gianfranco, tu hai citato il netbook, e sicuramente questo è un segmento di mercato che verrà eroso dalla crescita dei tablet. Rimane però un vantaggio, cioè che i netbook costano molto poco, perché in alcuni casi addirittura con 200-250 euro ci portiamo a casa un piccolo computer, mentre i tablet continuano a costare molto di più, perché vedo poco se non nulla sotto i 500 euro. Tu hai notizie o segnale di cambiamento? In questo momento chi ha annunciato qualche prezzo, per esempio l'ha fatto Acer questa mattina con noi, facendoci vedere il suo tablet, anche questo Tegra 2 Nvidia, anche questo Honeycomb, quindi Android, quindi sempre facente parte di questa grande famiglia, ha detto che il prezzo sarà sicuramente inferiore ai $500 a scendere. E questo scendere ci è stato spiegato che significava che staranno a vedere come si comporterà, come si muoverà il mercato, ma il prezzo al momento del lancio potrebbe essere anche più basso se le certe dinamiche di mercato e di offerte si innesteranno. Io mi aspetto entro qualche mese dei prezzi, quantomeno negli Stati Uniti, intorno ai $400, quindi che cominciano ad avvicinarsi in maniera importante a quelle cifre che hai citato. Va detto che un tablet ha uno schermo sensibile al tocco e delle anche problematiche di integrazione che inevitabilmente ne fanno un prodotto qualitativamente più importante e quindi più costoso di un netbook. Poi, se i numeri saranno importanti, i prezzi scenderanno molto velocemente, come sempre accade in tecnologia. Un'altra categoria di prodotti di cui avevamo già parlato lo scorso anno, e anzi lo scorso anno mi sembrava una vera e propria novità, quelle che venivano definite le connected TV, le TV connesse alla rete internet, di cui abbiamo parlato anche altre volte, abbiamo disegnato scenari in maniera molto chiara e quindi abbiamo già messo sul tavolo tutta una serie di dinamiche del mercato che vedremo nei prossimi mesi. Ho utilizzato il verbo al passato perché con questo Consumer Electronics Show non si chiamano più connected TV, cioè mi sembra di capire che la novità più grossa è che cambiano nome. In realtà sì, perché il concept è assolutamente lo stesso dello scorso anno e dei prodotti che già di fatto ci sono in commercio anche da noi. Sono TV con la presa di rete, con la logica interna tale per cui è possibile gestire delle applicazioni che potrebbero forse essere più evolute di quelle che ci sono oggi, ma comunque insomma la logica quella è. Cambia il nome perché oramai sembra che tutta l'industria converge verso il nome di Smart TV, quindi TV traduciamo intelligenti, sì, piuttosto che furbe, ecco, ma il concetto in realtà si richiama direttamente a un altro form factor di successo che è quello degli smartphone. Sì, sì, ormai quindi tutto smart. Tutto smart, come il passaggio dal telefono, dal cellulare allo smartphone, perché fondamentalmente il cellulare non solo, cioè i nuovi smartphone non solo ti permettono di chiamare, ma ti danno accesso a internet, accesso a contenuti in mobilità, musica, entertainment. Ecco, allo stesso modo i TV che non solo ti fanno vedere la TV ma fanno fare mille altre cose, ecco che si chiamano Smart TV. Certo che al marketing di queste aziende, Gianfranco, potremmo fare una bella figura anche noi o qualcuno insomma, ma anche di meno appassionato di tecnologia, perché se il massimo che si riesce a fare è fare dopo gli smartphone le Smart TV, che tra l'altro insomma, avevano già anche una loro identificazione come Connected TV, vabbè, chiusa la parentesi. Io... Cioè l'unico vero quesito che mi pongo è se poi gli utenti saranno sufficientemente smart per usare tutti questi apparecchi. Sì. Però su questo vediamo, noi facciamo la nostra parte informando gli ascoltatori di Radio 24 quantomeno, no? Ma questa, ecco, dicevo, l'unica novità sembra il nome, è vero o c'è qualche cosa in più quest'anno? No, qualche cosa in più c'è perché ormai la Google TV è negli Stati Uniti una realtà e quindi questa piattaforma di Smart TV, ormai chiamiamole così, che è una piattaforma che potrebbe, quantomeno nelle aspettative di Google, essere condivisa tra molti produttori, in questo momento è quasi un'esclusiva de facto di Sony, però potrebbe diventare una piattaforma comune che potrebbe dare nuovo impulso allo sviluppo di applicazioni. Mentre il punto più debole di tutte le piattaforme, quelle dei produttori di Sony, Panasonic, di Samsung, LG e così via, è il fatto di essere piattaforme proprietarie, cioè ognuno ha la sua e quindi uno sviluppatore che volesse fare un'applicazione, per esempio se noi di D-Day volessimo fare un'applicazione per far leggere le nostre notizie sui TV, dovremmo farne una per Sony, una per Panasonic, un'altra per Samsung, una per LG, tutte non compatibili una con le altre, vorrebbe dire moltiplicare le risorse di sviluppo inutilmente e questo chiaramente sta creando un limite allo sviluppo di contenuti, soprattutto di contenuti locali e qui viene il punto dolente. Le Smart TV in questo momento, già quelle ci sono in Italia, sono interessanti, permettono di utilizzare il TV con internet, di vedere i filmati di YouTube e altre cose, ma in termini di contenuti locali, ne hanno, quindi italiani, ne hanno molto, molto pochi, per i motivi di cui sopra. E tutti i produttori, o meglio tutti gli amministratori delegati che abbiamo incontrato qui delle filiali italiane, ci hanno detto che il loro impegno per il 2011 sarà quello di sviluppare le partnership con i content provider italiani per avere dei servizi italiani e che anche dalle case madri è arrivato un forte impegno da questo punto di vista. Speriamo sia la volta buona. Ecco, ricordiamo che queste piattaforme sono sostanzialmente delle interfacce che io mi trovo navigando sul televisore con il mio telecomando e che prendono contenuti, ricevono contenuti da internet, e appunto ogni produttore ha la propria interfaccia, la propria piattaforma, e nel caso di Google questa potrebbe essere una piattaforma trasversale, orizzontale su più produttori. Dicevi che al momento è limitata alle TV Sony, che però hanno anche una loro piattaforma, Curiosity, giusto? Cioè, sì, il Sony continua ad avere sui propri modelli la propria piattaforma, e su alcuni modelli specifici invece offre la piattaforma di Google, come dire, tiene i piedi in entrambe queste scarpe, sceglierà poi il secondo come evolverà il mercato, se insistere con la propria piattaforma o affidarsi completamente a quella di Google. Tutti gli altri in questo momento, in larga parte, anzi direi interamente, al di là di qualche prototipo fatto vedere, sono schierati sulle proprie piattaforme proprietarie. Questo è un tema di cui abbiamo già parlato, ma un tema molto interessante, molto affascinante, ma che presenta dei risvolti molto variegati per il mercato, perché tocca la produzione dei contenuti, la distribuzione dei contenuti, la produzione dei prodotti intesi come TV, quindi sicuramente ne riparleremo. Dobbiamo parlare per forza delle TV 3D senza occhialini, giusto per mettere i puntini sulle i e per frenare gli entusiasmi di alcuni, anche di alcuni colleghi giornalisti che forse hanno scritto delle TV senza occhialini senza poi essere lì e vederle. Allora, ci sono alcuni prototipi presentati, in realtà come stanno le cose, Gianfranco? Le cose stanno che questi prototipi sono visibili da tutti, e chiunque può vedere, come non possano essere magari curiosi, ma non possono essere minimamente presentati come TV per il salotto. A malapena potrebbero andare bene in un negozio per far vedere, non so, magari le finiture di un'automobile prima dell'acquisto in maniera tridimensionale, ecco, diciamo così, perché hanno dei limiti e dei vincoli incredibili, dei limiti di qualità della riproduzione e soprattutto dei vincoli, perché funzionano e danno una visione tridimensionale neanche ottimale, direi, e solo e soltanto se ci si posizioni in alcuni punti precisi. Quindi in fiera c'era proprio la posizione di dove mettere i piedi per ottenere la visione tridimensionale, altrimenti questa non c'è, anzi si vede male, si vede addirittura doppio se non si è nella posizione corretta. E quindi pensare che questi possano sostituire dei TV da salotto, beh, è quantomeno irrealistico, e comunque non è una cosa che accadrà nei prossimi mesi, io dico anche nei prossimi anni, però su questo ci sono opinioni differenti, e va bene, qui vale un po' tutto, perché nel nostro settore fare le previsioni a 2, 3, 5 anni diventa quasi impossibile. Senti, quindi sul mercato... Quello che si vede oggi non è un prodotto commercializzabile. Ecco, però sul mercato di prodotti del genere non ce ne sono proprio ancora oggi. No, non ce ne sono proprio. L'uniche cose che ci sono e che arriveranno sono i display 3D, diciamo, per gli apparecchi portatili. Sì, sì, abbiamo detto Nintendo 3DS, cioè la console video. Sì, Nintendo 3DS, sì, ma penso anche alle videocamere 3D che sono state presentate proprio qui a Las Vegas, montano ovviamente un display, ma si parla di 2 pollici, 3 pollici di display di questo tipo, anche quelli a barriera di parallasse autostereoscopici, quindi senza bisogno di occhiali, che però vengono visti, guarda caso, sempre alla stessa distanza e sempre in maniera... Sì, sì, per vedere quello che io riprendo, insomma. In questo modo, in qualche modo funzionano. Io continuo a dire in qualche modo, perché se per caso sono un pochino più lontano, un pochino decentrato, ecco che già l'effetto tridimensionale non lo vedo più. Chiarissimo. Adesso per noi c'è una pausa, ci ritroviamo tra poco, Gianfranco, così ci saluteremo. Vi ricordo che parleremo tra poco anche di Wikipedia, poi andremo a Venezia a parlare di diritto alla rete internet. A tra poco. ...2024. Il nostro programma andrà in onda dalle 15 di gennaio, tra le 15.30 e le 16, in diretta con gli ascoltatori. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Scriveteci per qualsiasi motivo, per proporre temi da analizzare nelle prossime puntate. Tra poco la nostra puntata sarà disponibile sul nostro sistema podcast, quindi andate sul nostro sito internet www.radio24.it, entrate nella sezione podcast e lì vedrete tutto quello che c'è a disposizione. Io vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio con uno dei tanti software disponibili gratuitamente su internet che gestiscono i podcast, come ad esempio l'iTunes, che è uno dei più diffusi. Tra l'altro domani iTunes festeggia i primi 10 anni di vita. Abbiamo parlato poco fa, ho citato la Nintendo 3DS che ha uno schermo autostereoscopico, quindi permette di vedere immagini in 3D senza bisogno di occhialini. Va detto, va precisato che Nintendo 3DS uscirà in tutto il mondo a marzo, alla fine di febbraio in Giappone. È con noi Gianfranco Giardina, collegato da Las Vegas, dove domani si chiude il Consumer Electronics Show, la fiera più importante al mondo per l'elettronica di consumo. Gianfranco, mi sembra di capire che quest'anno non ci sia una fiera assolutamente interessante come tutti gli anni, ma non ci sia nessuna grandissima novità, cioè nessuna discontinuità tecnologica, potremmo dire così. Ma direi vere grosse novità non ce ne sono. Voglio citarne due, giusto perché evidentemente siamo una fiera internazionale, poi tutte le altre e tutti i filmati sul sito di D-Day sono largamente disponibili, per quanto internet ci abbia permesso ovviamente di caricarli. E i due che voglio citare sono un telefono di Motorola, questa società che sembrava data per morta, invece qui è sembrata tra le più vivaci di tutta la manifestazione. E questo telefonino, sicuramente molto potente, sempre con il solito processore che viene applicato anche sui tablet, quindi il Tegra 2, in realtà è dotato di una gamma di accessori incredibile, tale per cui si prende il telefonino, lo si infilza in una specie di docking station. In realtà questa docking station è connessa via USB a una tastiera e a un mouse e via HDMI a un monitor, e di fatto si trasforma in un computer, cioè il processore, la memoria, la connettività già integrata, quindi si collega chiaramente a internet, ed ecco che il nostro telefonino diventa anche il PC magari di casa, certo non un PC potentissimo, ma sicuramente per navigare in internet, mandare le mail, riceverle, eccetera eccetera, è perfetto, una bella interfaccia. Lo stesso telefonino può essere sfilato da questa docking e infilato in una specie di portatile, diciamo così, un notebook, che in realtà è soltanto un tastiere e un monitor, perché anche in questo caso ovviamente il PC è sempre rappresentato dal telefono, e questo potrebbe darci un sapore di come potrebbe diventare il mobile computing nel futuro, cioè probabilmente non avremo più un computer portatile, quantomeno per gli usi diciamo moderati, ecco, non certo per chi fa grafica, ma per sì, tutti certo, gli altri, certo. Non avremo più un computer, andremo in giro con il nostro telefonino e all'occorrenza infileremo il telefonino in questo o quel accessorio di estensione che ci permetterà di avere un monitor, di avere una tastiera e di avere un eccetera mouse. Eccetera. Seconda novità è una non novità, però ha segnato comunque, ed è l'uscita, la presentazione delle Polaroid digitali, quindi le fotocamere Polaroid con funzionamento identico alle vecchie Polaroid, soltanto che integrano una stampante sublimazione e esce la foto immediatamente, ma stampata ovviamente con tecnica digitale. Quindi è un ritorno al passato con tecnologie nuove che Polaroid, proprio parliamo della società Polaroid, ha lanciato e presentato proprio ieri, proprio qui a Consumer Electronics Show. Beh, vedi che girando la novità l'abbiamo trovata. Sì, forse sì, però è un po' vintage come novità. Sì, sì. Bene, Gianfranco, io ti ringrazio, buon lavoro per questa ultima giornata e mezza di Consumer Electronics Show, e naturalmente ci risentiamo una volta tornati in Italia. A presto. Grazie mille, a presto. Cioè, in realtà, visto il fuso orario, meno 9 ore, si tratta delle ultime due giornate. Adesso cambiamo argomento, parliamo di Wikipedia, che il 15 gennaio compirà 10 anni, nel frattempo è diventata il quinto sito web più letto al mondo, visitato, pensate, ogni mese da 380 milioni di persone. Ad una settimana dal compleanno il fondatore Jimmy Wales può già festeggiare, perché il suo obiettivo di raccogliere 16 milioni di dollari è stato raggiunto, soldi che permetteranno a Wikipedia di funzionare e soprattutto di rimanere senza pubblicità almeno per un altro anno. Molti analisti dicono che Internet sta diventando il veicolo principale per la raccolta fondi e Wikipedia conferma questo trend. 500.000 persone in 140 paesi del mondo hanno contribuito in appena 50 giorni. Per parlare di questo risultato, ma in generale di Wikipedia, è con noi Frida Brioschi, che è presidente di Wikimedia Italia. Benvenuta a 2024. Grazie. Ho detto Wikimedia e non mi sono sbagliato. Alcuni potrebbero dire: no, hai detto Wikipedia e adesso hai detto Wikimedia. Allora, bisogna un po' spiegare. Il nome per il quale voi siete conosciuti è l'enciclopedia, quindi Wikipedia, oppure quante altre pronunce ci sono? Ne abbiamo censite almeno 8 diverse. Tipo? Wikipedia, Wikipedia, io la chiamo Wikipedia. Ok, quindi dipende un po' da che parte del mondo frequentiamo, oppure anche da come ci piace di più. Io dico Wikipedia. Perfetto. O Wikipedia, insomma. Wikimedia che cos'è? Wikimedia Foundation è la fondazione americana che sta dietro Wikipedia e agli altri 8 progetti e che si preoccupa di mantenerli in vita. Wikimedia Italia è un'associazione culturale italiana che è ufficialmente riconosciuta da Wikimedia Foundation e che è una sorta di filiale sul territorio italiano. Io ti ho invitato per un po' di motivi. Il primo è che voi avete appena terminato di raccogliere 16 milioni di dollari, corretto? Giustissimo. Forse anche qualche cosa in più. La seconda cosa è che tra una settimana voi compite 10 anni, che è un traguardo molto molto bello. Questi soldi a cosa servono? Perché ricordiamo che Wikipedia è un progetto gratuito, dove non c'è pubblicità, è un'enciclopedia che si può utilizzare in rete gratuitamente, basta avere appunto un collegamento in rete, un computer o anche uno smartphone, insomma qualche cosa che ci permette di andare online. Perché voi raccogliete costantemente, quindi anche in questo momento non è terminata la campagna di raccolta, però perché raccogliete soldi e a che cosa vi servono? Essendo il quinto sito più visitato al mondo, secondo Comscore, abbiamo un minimo di spese, insomma. Grosso modo il 50% dei soldi che sono stati raccolti verranno spesi in tecnologia, il che significa ad aumentare i nostri server, a rinnovarli, pagare la banda, la corrente, perché no, a sviluppare del nuovo software, a pagare le persone che lavorano nell'area tecnologica. Una parte servirà a pagare anche le 57 persone, che non sono moltissime, anche se il numero sembra consistente, che lavorano in Wikimedia Foundation, e il resto viene diviso nei vari, come dire, per sostenere questa fondazione, per cui ci sarà una parte che verrà spesa in comunicazione, una parte che viene spesa nell'area, diciamo, economica, una parte per gestire i donatori e una parte nei progetti speciali che vengono fatti tutti gli anni e magari devoluti alle varie associazioni nazionali per fare dei progetti sul territorio. Beh, banalmente anche per pagare il riscaldamento negli uffici della fondazione americana. Ho letto che sono 380 milioni, o sbaglio, gli utenti, i lettori di Wikipedia tutti i mesi. Posso sbugiardarti, 410 milioni secondo Comscore. Vecchio. Sì, questo è l'ultimo dato disponibile ed è quello di novembre. E lo so perché l'ho letto giusto ieri. È incredibile, perché stiamo parlando di un progetto che è nato, non dico per scherzo, però sicuramente all'inizio, 10 anni fa, nessuno immaginava che sarebbe arrivata a questi traguardi. Stiamo parlando, lo ripetiamo perché è un dato impressionante, del quinto sito più visitato al mondo, e quindi questi 16 milioni per far funzionare tutto il giocattolo sono praticamente nulla. Forse sono molto bassi, c'è una bellissima statistica, no, non statistica, insomma una tabella in rete disponibile che cercando si trova, che fa vedere i primi 10 siti al mondo, il numero di dipendenti che hanno, e tra l'altro l'unica non profit presente è Wikipedia, cioè, con Wikimedia Foundation. Esatto, una bella idea, proprio perché tutto nasce dal basso. Ricordiamo, per chi non conosce molto bene come funziona Wikipedia, che tutte le voci di questa enciclopedia, un'enciclopedia multilingue, perché quante sono le lingue in cui è pubblicata? Circa 270. Però le principali cosa saranno? 10-15? Beh, insomma, credo che con 10 o 15 copriamo solo le lingue europee. Però sì, le più grandi sono 7-8 lingue europee, più credo il giapponese e forse il cinese, ma non sono con certa. Milioni di voci. Dicevo, è un'enciclopedia che è scritta dalla gente, cosa che potrebbe sembrare strano, però visti i risultati, insomma, il tutto funziona. Come vengono create queste voci? Le persone arrivano sul sito, il meccanismo più semplice, quello che succede più di frequente, è che leggendo una voce si accorgono che è presente un errore, fosse anche solo un errore di battitura, e cercano di capire come fare a correggerlo. Quindi in quel caso cliccano sul bottoncino modifica che c'è in testa a tutte le voci e la correggono seduta stante. In altri casi arrivano e cercano di inserire proprio una voce ex novo, perché magari si accorgono che non c'è e provano a scriverla. Quindi se io sono un esperto di botanica potrei scrivere una voce su una pianta. Accomodati, non aspettiamo altro. In passato si è discusso molto, forse alcuni discutono ancora, c'è tutta una generazione che però non discute proprio, sull'attendibilità di queste voci. Devo dire, lo dico anche agli ascoltatori di Radio 24, che anche noi all'interno della redazione utilizziamo senza alcun tipo di problema le voci di Wikipedia, e devo dire che normalmente non troviamo errori. Ecco, ma voi di fronte a questo numero incredibile di voci e probabilmente anche qualche errore che ogni tanto si incontra, che tipo di atteggiamento avete? Cioè, come cercate di limitare gli errori che probabilmente, insomma, appunto vengono fatti? C'è una pagina all'interno dell'enciclopedia che si chiama la pagina delle ultime modifiche, che è accessibile da tutti, dove si vedono esattamente tutto quello che sta succedendo su Wikipedia in quel momento. Gli utenti più attivi a un certo punto della loro carriera smettono di scrivere voci e si occupano solo di revisionare quelle che arrivano, per cui vivono su questa pagina, continuano a vedere quello che succede e vanno a leggere quello che viene inserito. L'idea non è che loro correggano al volo tutti gli errori, correggeranno al volo gli errori che sono immediatamente evidenti e poi metteranno dei banner in testa alle voci dove segnalano eventuali problemi. Se ti è mai capitato di vedere una voce con scritto in testa senza fonti, è perché qualcuno l'ha letta e ha detto: attenzione, qui non è indicato nessuna fonte che è stata utilizzata per scrivere questa voce. Questo lo fanno le persone che consultano la pagina delle ultime modifiche, ma anche persone che leggono delle voci a caso, magari sono andati a consultare una voce e, conoscendo il meccanismo del funzionamento, dicono: aspetta un momento, secondo me qui c'è qualche problema. E magari non lo correggono, ma si occupano solo di avvisare gli altri che leggeranno dopo e quelli che invece lavorano attivamente alla correzione delle voci, che lì c'è qualcosa da sistemare. Senti, quante sono le persone italiane o di lingua italiana che collaborano a Wikimedia Italia e quindi poi a Wikipedia Italia? Non coincidono le due cose. I soci dell'associazione sono grosso modo 300 persone in questo momento e sono in crescita, perché ultimamente si sono iscritti moltissimi. Le persone che collaborano a Wikipedia, ci sono grosso modo 500.000 di utenti registrati. Di questi 8.000 sono attivi tutti i mesi e 500 sono persone molto attive, significa che fanno 2 o 3 modifiche almeno tutti quanti i giorni. Ricordiamo che queste persone sono volontari. Sì, non c'è nessuno di pagato per scrivere i contenuti dell'enciclopedia. Quindi 500 persone che potranno essere, non so se voi avete un censimento, studenti, professori, perché le voci di Wikipedia sono innanzitutto molto ricche, non sono 4 righe, poi se uno è abituato ad andare a visitare Wikipedia lo sa, quindi ci vogliono persone competenti. In realtà è stato fatto un'analisi della composizione nelle nostre community, chiaramente su base volontaria, perché chi voleva rispondeva al questionario o meno, e quello che è venuto fuori è quello che abbiamo sempre percepito negli anni, ossia che non c'è un profilo tipo delle persone che collaborano, né per età né per tipo di formazione. L'unica cosa che possiamo dire sulla nostra composizione è che le donne sono molto poche. Ah, che strano, ma chissà perché. Vi siete fatti un... È il più grosso enigma della storia. Però il presidente è una donna. E cosa ci vuoi fare? Senti, quali sono? Tu hai citato più volte gli altri progetti. Wikipedia è il più famoso. Che cosa c'è di altro? Abbiamo diviso grosso modo il sapere in tanti aspetti diversi, per cui Wikipedia si occupa di fare l'enciclopedia, poi gli altri progetti si occupano di aspetti diversi. Il più grosso forse dopo Wikipedia è Wikimedia Commons, che è il nostro database pieno di immagini e contenuti multimediali, per cui ci sono anche dei suoni, ci sono dei video, ed è utilizzato da tutti i progetti e può essere invece utilizzato anche dall'esterno, come non so, Flickr, YouTube, eccetera, eccetera, anche se sono dei contenuti un po' più con taglio enciclopedico, formativo, più che di svago. Tra gli altri progetti abbiamo un notiziario, abbiamo una biblioteca, c'è un dizionario, sono 8 in totale i progetti e tutti quanti cercano di crescere disperatamente. E funziona tutto con il metodo Wikipedia? Assolutamente sì. Cioè volontari che pubblicano e collaboriamo tutti insieme per costruire questa conoscenza. Voi dite che non siete o non vorreste essere una fonte primaria. Invece lo siete di fatto. Perché molti in rete vanno su Wikipedia e quello che dice Wikipedia è vero. È un po' l'approccio che avevano gli italiani, credo, negli anni 50. L'ha detto la televisione e quindi è vero. Sì. E sì, noi cerchiamo di ricordare sempre a tutti che nessuno può garantire che quello che c'è scritto su Wikipedia è corretto. Per cui Wikipedia non deve essere utilizzata come fonte unica, ma può essere un buon punto di partenza. E quelle che noi consigliamo, citiamo come fonti o consigliamo come collegamenti esterni sono sicuramente delle fonti interessanti per approfondire l'argomento. Però indubbiamente bisogna consultare anche qualcos'altro. Però diciamo il successo vi ha un po' travolto, cioè, vi ha preso un po' in contropiede. Voi dite mettete le mani avanti, però diciamo il successo queste mani le sposta all'indietro. In realtà abbiamo iniziato fin dall'inizio, da che io ricordo perlomeno, a fare formazione in questo senso, cioè a spiegare alle persone che tutto sommato di quello che c'è in rete, al di là dei siti istituzionali, bisogna fidarsene, ma fino a un certo punto. Concludiamo ricordando un progetto che voi state per lanciare per festeggiare questi primi 10 anni di vita, poi ricordiamo anche, e mi piace ricordarlo, che continua la campagna di raccolta fondi. Certo. Come si fa? Sostienilacultura.it e ci sono tutte le informazioni del caso. Tra l'altro se uno è italiano può donare e tutto è detraibile dalle tasse. Esattamente. Il progetto che stiamo lanciando invece durerà un anno e siccome Wikipedia è fatta dalle persone per le persone, ci piace raccogliere le storie di chiunque abbia partecipato a Wikipedia o che usi Wikipedia e che abbia voglia di raccontarci. 10 anni di sapere.it, lo raccontiamo da lì. Bene, metteremo naturalmente link anche sul nostro sito internet, grazie di essere stata con noi, buon lavoro e anche buon divertimento, immagino ci sarà una festa per questi 10 anni. Ne facciamo una a Milano, uno a Vicenza e poi ci sarà una passeggiata ai Fori a Roma. Bene, quindi in bocca al lupo per i prossimi 10 anni, grazie a Frida Brioschi, presidente di Wikimedia Italia. Grazie. E per noi c'è una breve pausa, ci risentiamo tra circa un minuto. Ultima parte di 2024, vi ricordo che dalla prossima settimana, da sabato 15 gennaio, il nostro programma guadagnerà mezz'ora, quindi andremo in onda tra le 15.30 e le 17, un'ora e mezza che dedicheremo anche agli ascoltatori che potranno intervenire durante il nostro programma. Scriveteci nel frattempo, il nostro indirizzo è molto semplice, 2024@radio24.it. Abbiamo parlato poco fa del compleanno dei primi 10 anni di Wikipedia, c'è un altro compleanno da festeggiare, domani 9 gennaio Apple festeggia i primi 10 anni dell'iTunes, il software di gestione dei file musicali, dell'iPod, dell'iPhone e di tante altre cose che tra l'altro dal 2003 divenne anche l'interfaccia del negozio online, l'iTunes Music Store, che oggi è solo store perché non c'è solo la musica. Inutile dire che si è trattato di una rivoluzione nel corso di questi 10 anni perché ha cambiato, in primis il mondo della musica, il modo di vendere e di utilizzare la musica, e poi ci sono tutta un'altra serie di novità che sarebbe molto lungo raccontare. Dal 1 gennaio Dilma Rousseff è il nuovo presidente del Brasile, molti di voi lo sapranno. La citiamo perché nella sua prima riunione ufficiale ha chiesto con una certa insistenza, una certa forza, tariffe popolari per la connessione ad internet, in modo da favorire l'accesso alle nuove tecnologie anche alle classi medio-basse del Brasile. L'abbiamo detto più volte da questi microfoni, collegarsi ad internet è ancora oggi molto costoso per buona parte della popolazione. Lasciamo perdere tutti i problemi infrastrutturali di cui abbiamo parlato molto spesso. Ma a proposito di accesso alla rete internet, anche di diritto ad utilizzare questi servizi, a Venezia se ne sta discutendo in consiglio comunale, prima in giunta, poi in consiglio comunale, e di questo vogliamo parlare con l'assessore a, tra le altre cose, la cittadinanza digitale, Gianfranco Bettin. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi. A Venezia già da un po' di tempo vi occupate di quella che potremmo definire appunto cittadinanza digitale, con una rete che si sta estendendo, però voi in giunta avete discusso di un vero e proprio diritto che volete portare all'attenzione del Consiglio Comunale. In che cosa consiste questo diritto alla rete internet per i cittadini di Venezia? Noi abbiamo voluto dare una veste, diciamo così, solenne, introducendo nello statuto del comune, cioè nella carta fondamentale che ispira la programmazione del comune e anche i suoi principi di riferimento, l'idea che appunto ormai l'accesso alla rete internet è un elemento fondamentale, non è un di più, è un po' come il diritto all'istruzione, per capirci, non la consideriamo una cosa magari importante, ma diciamo così opzionale, ecco, un optional, la consideriamo un elemento fondamentale della cittadinanza contemporanea, e sia per quanto riguarda la possibilità per il singolo cittadino di avere informazione, di avere conoscenza anche degli atti stessi, da un mese tutti gli atti dell'amministrazione, tutte le delibere sono in tempo reale in rete, quindi chiunque le può vedere e consultare, ma anche come grande opportunità la consideriamo di sviluppo economico, di impresa, insomma è uno strumento ormai indispensabile, e quindi abbiamo deciso di introdurre nello statuto questo articolo che recita testualmente: il Comune di Venezia considera la rete internet un'infrastruttura essenziale per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, e poi prosegue dicendo che a questo scopo noi garantiamo investimenti che vanno sia nel senso di costruire la rete sia nel senso di rimuovere gli ostacoli economici, sociali o culturali che impediscono alle persone di utilizzarla fino in fondo. E la consideriamo anche uno strumento per favorire la partecipazione, il controllo degli atti pubblici e la interattività tra istituzioni e cittadini. E come ricordava lei, viene questa scelta dopo 2 o 3 anni di forte lavoro in questo campo. Sì, sì. Ecco, concretamente questo che cosa significa proprio anche a livello infrastrutturale? Significa che abbiamo deciso di affrontare il deficit di investimenti che in questo paese ci relega al 20° posto in Europa per possibilità di accedere appunto e di usare la rete, e quello che non fanno le istituzioni centrali abbiamo deciso di farlo noi come città, e tra l'altro abbiamo lanciato anche un movimento in questo senso che vede molti comuni convergere in questa direzione, e abbiamo quindi cominciato a investire, abbiamo posato cavi a 144 fibre l'uno, quindi cavi molto forti che ci hanno consentito nel giro di un paio d'anni di posare 10.000 chilometri di fibra. Non spaventi la lunghezza di questa rete, e ovviamente ogni cavo porta 144 fibre, quindi si fa presto a raggiungere, però ne abbiamo posati moltissimi. Abbiamo creato, dove non sono arrivati i cavi, una specie di arcipelago di isole Wi-Fi con gli hotspot. Abbiamo rilegato, come si dice, cioè rese in Wi-Fi circa 200 sedi pubbliche, i parchi della città, molte zone, quindi creando molta possibilità di connettersi sia per chi vive sia per chi lavora e studia a Venezia e nella sua terraferma, perché il comune di Venezia è fatto della città storica sull'acqua, ma anche di Mestre, di Porto Marghera, quindi di aree urbane e industriali molto importanti e molto vaste. Quindi sostanzialmente, ecco, quanto avete investito? Negli ultimi anno e mezzo oltre 10 milioni di euro, per cui per la rete e per il wifi. Entro quest'anno completeremo la prima parte di questo programma, che ovviamente non si fermerà a questo, che ha poi una sua interfaccia nelle piattaforme digitali che il sito del comune mette a disposizione proprio per interagire con i cittadini, a che fare questo con la segnalazione di problemi, con la consultazione di atti, con la prenotazione di servizi e così via. Una parte di questo è molto riservata anche ai turisti, che come è noto sono moltissimi, che possono giovarsene. Senta, sostanzialmente quindi voi dite tutti i cittadini devono essere messi in condizione di accedere alla rete internet. Tutto ciò gratuitamente, cioè ad esempio le aree wifi sono gratuite? Sì, per i residenti e per i cosiddetti city users, cioè chi lavora e studia in città, sì. Ma i singoli turisti in certe zone ce l'hanno gratuita, in altre zone possono si registrano, pagano un ticket, tipo un euro mi pare, e possono poi navigare tranquillamente fino a che gli serve. Sì, la vostra intenzione è quella di portare la fibra anche nelle case, come si dice oggi, insomma, sì. I progetti di fibre verso gli appartamenti proprio. Quello ovviamente è la parte più impegnativa. Noi stiamo costruendo la grande infrastruttura, stiamo anche discutendo con grandi società private per elaborare un programma comune, proprio per arrivare mettendo insieme le risorse fino alla casa, diciamo. Adesso alla casa ci arriviamo attraverso queste molte isole wifi che coprono anche aree residenziali, specialmente nelle zone più periferiche o viceversa nelle zone centralissime di Venezia, quelle più visitate eccetera, e oppure in particolari situazioni quando c'è la mostra del cinema o la biennale nelle aree rispettive, o quando c'è il grande ormai tradizionale concerto festival Heineken a Venezia, il grande parco di San Giuliano eccetera. In occasioni particolari attrezziamo anche certe aree, ma l'idea è quella di coprire integralmente la città con la banda larga, posando cavi in fibra ottica e integrandoli con le aree wifi quando questo non è per ora possibile o è difficilissimo per ragioni oggettive, insomma. Ma poi c'è un altro versante su cui lavoriamo per combattere il divario digitale, perché una parte è un problema, dipende da una questione strutturale, appunto realizzare la possibilità di connessione, un'altra parte è culturale, specialmente per i non nativi digitali, come si dice, quelli che non sono nati con la rete attorno a sé, diciamo così. E quindi che cosa fate per questo? Perché questo effettivamente è un problema. Corsi di alfabetizzazione informatica, corsi di promozione alla conoscenza della rete e dei suoi strumenti e soprattutto delle sue potenzialità. Tra l'altro un mese fa circa al Parco Scientifico di Marghera, che è l'area dell'innovazione, insomma, che noi abbiamo fatto un convegno che si intitolava "Cosa fareste con 300 mega di banda larga?" E la Confindustria del Veneto ha presentato lì una ricerca da cui risulta che le difficoltà di accedere alla rete sono dovute certamente in parte, pur in una regione così sviluppata, alla mancanza dell'infrastruttura, ma in molta parte anche dal fatto che molti intervistati rispondevano "non saprei cosa farmene". Questo è un problema, giusto? Giusto. È un problema che occorre affrontare, perché si perdono enormi opportunità in tutti i sensi, no? Senta, e quindi lei pensa che una città come Venezia, che ha una serie di problemi anche di emigrazione, perché so che insomma una parte della popolazione si è spostata per ovvi problemi che ci sono in città, ecco, una cosa del genere possa anche servire per far tornare o vecchi cittadini oppure anche persone che decidono di spostare la propria residenza a Venezia? Venezia si è sempre ripopolata nella sua storia attirando nuova popolazione, sia dopo catastrofi, pestilenze, cose del genere, no? Sia dopo fasi di declino che meno cruente, diciamo così. Adesso Venezia sconta i problemi che hanno tutti i centri storici, con la particolarità che Venezia è tutta un centro storico, no? E anche se poi si è allargata in terraferma, eccetera. E certamente la possibilità di avere la connessione, di poter usare questi strumenti, queste nuove tecnologie, semplifica la vita e credo possa renderla molto appetibile. Tra l'altro sono tutte tecnologie compatibili, a differenza di altre più, come dire, novecentesche e pesanti, anche con una città storica e artistica come, sì, come Venezia, e ambientalmente, diciamo così, complessa, no? E quindi contiamo molto su questo, ma ci contiamo anche per rilanciare Porto Marghera, per dire che ne ha altrettanto bisogno, anche se non ha la stessa preziosità artistico-ambientale, diciamo così. Senta, le faccio dire una cosa, le faccio dire poi lei, naturalmente è libero di dire quello che vuole, però io sostengo spesso che questi investimenti confrontati con altri investimenti, anche in tempi difficili, economicamente difficili come questi, siano sostanzialmente investimenti abbastanza affrontabili. Mi conferma questo oppure no? Assolutamente, assolutamente. Sono investimenti onerosi se si lasciano per esempio soli i comuni, se si fa come non si è ancora fatto, o meglio non è ancora decollato anche se se ne sta parlando, un piano nazionale che consideri l'ingresso nell'era del web 2.0 e forse addirittura 3.0 come una dimensione decisiva per stare in modo competitivo e innovativo dentro lo scenario globale, allora i costi vengono dimensionati. Insomma, è che in Italia si tende a considerarlo come un di più, come se il problema fosse quello di cambiare la vecchia automobile con una nuova passando un'auto di lusso. Qui siamo proprio a usare il veicolo fondamentale, anzi siamo alla costruzione della strada, delle nuove strade, insomma. Le faccio un'ultima domanda prima di salutarla. Non sono molti i politici, mi confermerà, che parlano in questo modo all'interno di un'amministrazione, forse in molti casi non vengono neppure ascoltati, ma perché proprio non si capisce che cosa un politico che parla come sta parlando lei sta dicendo. Lei prima citava un movimento, un network di altri comuni, esiste qualcosa che si sta abbiamo muovendo? Abbiamo fatto a dicembre un convegno promosso dal comune di Venezia, dalla provincia di Roma e dalla regione Sardegna, l'abbiamo fatto a Roma, in quanto baricentrica, diciamo, in cui abbiamo lanciato quello che chiamiamo il federalismo digitale, no? Ma per dire questo, c'è carenza di un investimento centrale, proprio forse per un ritardo culturale, per tanti motivi, come dicevamo prima. Partiamo dagli enti locali, partiamo dalle città, dalle province, dalle regioni che ci stanno, partiamo dai soggetti, e quel convegno è stato promosso da queste tre amministrazioni, dalla rivista Wired anche, e abbiamo detto uniamoci, federiamoci appunto, no? E sollecitiamo anche un'iniziativa centrale, ovviamente nazionale, e sta avendo molto successo, molte adesioni abbiamo riscontrato, e quindi c'è questa domanda. Probabilmente significa che c'è anche una classe politica che sta attenta, si stanno moltiplicando le esperienze appunto di persone che anche dentro la politica e soprattutto nelle amministrazioni capiscono che stiamo parlando di una cosa grande, di una cosa decisiva, non appunto di un lusso da prenderci in tempi di crisi. Questa è la risposta alla crisi, non è una cosa da fare dopo la crisi, quando l'avremo superata. Questo è l'investimento che ci serve per andare oltre la crisi. Assessore, io la ringrazio e le auguro buon lavoro, grazie molto. Altrettanto, arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ci risentiamo, se lo desiderate, se potete, in diretta il prossimo sabato, quindi dal 15 gennaio, in diretta tra le 15.30 e le 17. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.